Nel giorno in cui Mosè terminò di erigere la dimora, ungerla e santificarla con tutti i suoi arredi, l'altare e tutti i suoi arredi, si avvicinarono i capi di Israele che sono alla testa delle loro case paterne, capi delle tribù che avevano presieduto ai censimenti, e portarono le loro offerte davanti al Signore. 6 carri coperti e 12 buoi, un carro per 2 capi e un bue per 1. Li presentarono davanti alla dimora. Il Signore disse a Mosè: prendili e siano per il servizio della tenda del convegno. Li darai ai leviti, ognuno secondo il suo lavoro. Mosè prese i carri e i buoi e li diede ai leviti. 2 carri e 4 buoi li diede ai figli di Gerson, secondo il loro lavoro. 4 carri e 8 buoi li diede ai figli di Merari, secondo il loro lavoro, sotto la direzione di Itamar, figlio del sacerdote Aronne. Ai figli di Cheat non diede niente, perché hanno il servizio degli oggetti sacri da portare in spalla. I capi fecero l'offerta per la dedicazione dell'altare nel giorno in cui fu consacrato. I capi offrirono i loro doni davanti all'altare. Il Signore disse a Mosè: un capo un giorno, un capo un altro giorno, offriranno i loro doni per la dedicazione dell'altare. Chi offrì nel primo giorno il proprio dono fu Nacason, figlio di Amminadab, della tribù di Giuda. Il suo dono: un piatto d'argento di 130 sicli di peso, un vaso d'argento di 70 sicli del siclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa nell'olio per l'offerta, una coppa di 10 sicli d'oro piena d'incenso, un vitello, un montone e un agnello di un anno per l'olocausto, un capretto per il sacrificio del peccato, per il sacrificio di pace 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli di un anno. Questo è il dono di Nacason, figlio di Amminadab. Nel secondo giorno offrì Natanael, figlio di Suar, capo di Issacar, il suo dono: un piatto d'argento di 130 sicli di peso, un vaso d'argento di 70 sicli del siclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa nell'olio per l'offerta, una coppa di 10 sicli d'oro piena d'incenso, un vitello, un montone e un agnello di un anno per l'olocausto, un capretto per il sacrificio del peccato, per il sacrificio di pace 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli di un anno. Questo è il dono di Natanael, figlio di Suar. Nel terzo giorno, il capo dei figli di Zabulon, Eliab, figlio di Chelon. Il suo dono: un piatto d'argento di 130 sicli di peso, un vaso d'argento di 70 sicli del siclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa in olio per l'offerta, una coppa di 10 sicli d'oro piena d'incenso, un vitello, un montone e un agnello di un anno per l'olocausto, un capretto per il sacrificio del peccato, per il sacrificio di pace 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli di un anno. Questo è il dono di Eliab, figlio di Chelon. Nel quarto giorno, il capo dei figli di Ruben, Elisur, figlio di Sedeur. Il suo dono: un piatto d'argento di 130 sicli di peso, un vaso d'argento di 70 sicli del siclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa in olio per l'offerta, una coppa di 10 sicli d'oro piena d'incenso, un vitello, un montone e un agnello di un anno per l'olocausto, un capretto per il sacrificio del peccato, per il sacrificio di pace 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli. Questo è il dono di Elisur, figlio di Sedeur. Nel quinto giorno, il capo dei figli di Simeone, Selumiel, figlio di Surisaddai. Il suo dono:

per il sacrificio di pace, 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli di un anno. Questo è il dono di Pagiel, figlio di Ocran. Nel 12° giorno, il capo dei figli di Neftali, Achira, figlio di Enan. Il suo dono, un piatto d'argento di 130 sicli di peso, un vaso d'argento di 70 sicli, del siclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa in olio per l'offerta, una coppa di 10 sicli d'oro piena d'incenso, un vitello, un montone e un agnello di un anno per l'olocausto, un capretto per il sacrificio del peccato, per il sacrificio di pace, 2 buoi, 5 montoni, 5 capri e 5 agnelli di un anno. Questo è il dono di Achira, figlio di Enan. Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi di Israele nel giorno in cui fu unto: 12 piatti d'argento, 12 vasi d'argento, 12 coppe d'oro. Ogni piatto d'argento era di 130 sicli e ogni vaso di 70. Tutti gli oggetti d'argento erano 2.400 sicli in siclo del santuario. 12 coppe d'oro piene d'incenso e ogni coppa era di 10 sicli in siclo del santuario. Tutto l'oro delle coppe era 120 sicli. Tutto il bestiame per l'olocausto, 12 tori, 12 montoni, 12 agnelli di un anno con le loro offerte, 12 capretti per il sacrificio del peccato. Tutto il bestiame per il sacrificio di pace, 24 tori, 60 montoni, 60 capri, 60 agnelli di un anno. Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare dopo che fu unto. Quando Mosè entrava nella tenda del convegno per parlare con il Signore, udiva la voce che gli parlava dal propiziatorio sopra all'arca della testimonianza tra i 2 cherubini. Il Signore gli parlava.